Ambiente e Salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente. Bentrovati amici di Blu Radio Veneto da parte di Antonio Seccato. A seguito delle richieste pervenute da parte di molti ascoltatori, abbiamo deciso di ritornare su due argomenti di grande interesse: il diritto del bambino a non essere inquinato e i FAS composti per fluoroalchilici. Il primo argomento sarà trattato dal dottor Giacomo Toffol ed il secondo dal dottor Francesco Cavasin. Partiamo direttamente con il dottor Toffol. Perché dobbiamo occuparci dei bambini? L'inquinamento dell'ambiente è un problema che è importante per tutte le popolazioni, per tutte le fasce di età. Purtroppo gli effetti di questo inquinamento sono maggiori sui bambini. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che complessivamente il peso dell'inquinamento ambientale su tutte le malattie di tutta la popolazione sia di circa un quarto, che vuol dire che una malattia ogni quattro di tutte quelle che colpiscono la popolazione può essere legata a un ambiente insano, a un ambiente insalubre. Il problema è che queste malattie, come dicevo prima, colpiscono più di tutto i bambini. Pensi che il 40% di tutto questo carico di malattia colpisce i bambini sotto i 5 anni, che sono circa il 12% di tutta la popolazione. Quindi non più una su quattro, se dobbiamo parlare di bambini, ma si arriva addirittura a una malattia su tre legata all'ambiente. Un dato, diciamo, almeno preoccupante, se vogliamo. E perché succede tutto questo? Ma sai, i bambini sono più esposti per svariati motivi. Noi sappiamo che i bambini non sono dei piccoli adulti e sono degli esseri, delle creature ancora in divenire, che non sono ancora perfettamente mature, e questo fa sì che ci siano dei fattori che li rendono più sensibili all'inquinamento. Esistono per esempio delle fasi che si chiamano finestre di suscettibilità, in cui gli organi sono più esposti, sono più sensibili ad essere danneggiati. Sono le fasi in cui questi organi sono in più rapida maturazione, in più rapida crescita. Pensiamo ai primi anni di vita dei bambini dalla nascita, anzi ancora da prima della nascita fino ai primi 2-3 anni di vita. In questo periodo si creano tutte le cellule cerebrali, tutte le connessioni che ci sono nel nostro cervello. Dopo i 3 anni non se ne creano più di nuove, quindi una lesione che colpisca in questa fase ovviamente sarà molto più grave, irreparabile, sarà molto più dannosa. Lo stesso vale per esempio per i polmoni. Tutti gli alveoli polmonari, cioè tutte le zone in cui si scambia l'ossigeno fra l'aria e il sangue, si formano entro i primi 5-6 anni di vita. Chiaramente lesioni che colpiscono in questo periodo di tempo saranno sicuramente molto più dannose. Poi oltre a questo, i bambini hanno un metabolismo immaturo, non sono ancora in grado di digerire, di trasformare, di metabolizzare ed eliminare molte sostanze. Sono banalmente anche più esposti perché hanno una vita più lunga davanti e quindi hanno più tempo, perché le malattie causate dall'inquinamento, molte delle quali hanno dei periodi di latenza molto lunghi, possono esplicare i loro effetti sicuramente. E poi sono più esposti anche perché loro hanno avendo un metabolismo diverso, mangiano, respirano, bevono molto di più rispetto a quello che facciamo noi a parità di peso, e quindi possono inalare molta più aria inquinata. Respirano ad esempio circa 2 volte più di un adulto per ogni chilo del loro peso, mangiano circa 6 volte più di un adulto, bevono liquidi per 5 volte più di un adulto, e di conseguenza entrano in contatto con una quantità di inquinanti molto maggiore. Sono numeri che fanno pensare, anche perché chiaramente questa possibilità, diciamo, di essere inquinati evidentemente è molto più elevata di quello che un normale cittadino possa pensare, o sbaglio? Certo. Pensiamo inoltre che i bambini nascono anche già inquinati. Molte sostanze vengono trasmesse dalla madre durante la gravidanza, molte sostanze nocive possono attraversare la placenta e possono colpire quindi i bambini ancora prima che nascano. Questo periodo soprattutto è molto importante, perché è il periodo in cui c'è il maggior sviluppo dell'organismo, e alterazioni in questa fase di età chiaramente possono essere molto molto più dannose quando avvengono durante la gravidanza. Esattamente, e questo è naturalmente un caso che si propone, non dico quotidianamente, ma anche abbastanza spesso dalla stampa, eccetera eccetera. Queste sono riflessioni che stimolano altre domande. Cosa può succedere ad esempio durante la gravidanza? Allora, guardi, durante la gravidanza il bambino, cioè durante la gravidanza l'organismo, che poi diventerà il bambino, quindi il feto, cresce e si sviluppa, e perché si sviluppi sono necessarie due cose: che la madre gli trasmetta le sostanze nutritive che servono per lo sviluppo, ma che gli trasmetta anche una serie di informazioni. In parte queste informazioni sono codificate dai geni, in parte sono legate all'ambiente, e in questo senso intendo l'ambiente come, inteso come utero, cioè l'ambiente in cui il bambino si trova a vivere. Nell'utero ci sono le trasmissioni di impulsi da parte della madre, impulsi che avvengono attraverso la produzione di ormoni, ad esempio gli ormoni tiroidei, che servono per un adeguato sviluppo, per esempio, del cervello del bambino. È chiaro come se queste informazioni vengono trasmesse male, avremo sicuramente più rischio che ci possano essere delle alterazioni nello sviluppo, nella programmazione proprio dello sviluppo, ad esempio, del cervello. Certo, viene da chiedersi se tutti sono consapevoli di questo, diciamo genitori e futuri genitori. Non credo che lo siano né i genitori e forse tante volte nemmeno le istituzioni che dovrebbero essere preposte alla nostra attenzione. Pensiamo ad esempio al caso dei pesticidi, non ci sono le informazioni sul rischio che possono avere questi pesticidi durante la gravidanza, per esempio. E che cosa possiamo fare per proteggere i bambini? È perché la domanda disarmante è questa alla fine. Certo, no, io non vorrei spegneste la radio dopo questa chiacchierata dicendo non abbiamo nulla da fare. Sicuramente ci sono delle cose che tutti noi delle possiamo azioni fare, che possiamo intraprendere. Delle azioni che possiamo intraprenderne, ce ne sono sicuramente. Allora, per esempio, abbiamo parlato prima dell'importanza della gravidanza, quindi adesso mi rivolgo alle future mamme. Ricordiamo che il periodo della gravidanza è uno dei periodi più importanti nello sviluppo della vita del bambino. È il periodo in cui ci possono essere dei rischi, ma ci possono essere anche dei comportamenti virtuosi che permettono di ridurre questi rischi, ad esempio, come dicevo prima, l'evitare l'uso dei pesticidi, ad esempio l'evitare come i pesticidi anche l'alcol. Sappiamo che è un problema durante la gravidanza il fumo di sigaretta. Dopo la nascita, quello che tutti noi possiamo fare, a parte l'allattamento materno che è, come sappiamo tutti, uno dei cardini di una sana vita, è ad esempio quello di non restare tutti chiusi dentro in casa. Ricordiamo che tutto quello di cui abbiamo parlato non c'è solo nelle strade, ma c'è anche all'interno delle nostre case, per cui usciamo, cerchiamo di trovare i posti meno inquinati possibili, però usciamo e portiamo fuori i bambini, portiamoli fuori a camminare, portiamoli fuori a giocare e a vivere all'esterno. Possiamo chiedere poi alle amministrazioni comunali, secondo me, qualcosa. L'esempio dei pedibus, i progetti con cui i bambini vanno a scuola a piedi. Un'altra cosa che possiamo chiedere è estendere le zone a 30 km orari. È dimostrato che questo riduce gli incidenti, riduce l'inquinamento atmosferico e riduce l'inquinamento acustico. Quindi delle cose da fare, secondo me, ci sono. Quelle sono delle azioni che sia individuali che collettive possono dare chiaramente qualche speranza in più. Certo. Ecco, noi ringraziamo il dottor Toffol per la sua, come dire, molto inclusiva, diciamo, dissertazione, perché sono argomenti che richiederebbero molto più tempo, ma vogliamo dare dei flash ai nostri ascoltatori in modo che da parte loro ci sia qualche iniziativa per poter fare delle azioni di tutela per i propri bambini. Grazie. Dottor Toffol, ci fermiamo un attimo per il brano musicale che è Un mondo verde verde. Adesso corri bambino, corri come una palla di fucile. Tu stai andando verso il tuo futuro, stai salendo sempre un po' più su. Avrei giocattoli sempre più belli, un grosso video sul computer. Voglio un mondo verde verde, voglio